no contadino di cuore, no greco, ci capite no cuore. Certa terra che era piantata rano frasinero, ci si è messa noi surici a fa guerra. Surici muscaroi appanzelliti, che magnevano e struglievano guastiti. Non c'era buono niente, lo veleno ci cenevano a uso panzanello. Io so ricciaro pure, meno che meno, io piglievano pure un coglionella. Se il rosichino ficcata una spilla, puro io santo de santa cobilla. E che me magno stanno, come faccio? Piagnena credo di renno sen fronte. Ma vedi se che guai a mi poraccio, so surici, ma che gli caccia sponte? E chi per esarfamme sto d'inverno c'è buono solo che io patraterno, non c'era pensato. Ditto fatto, se viene arremutata e va a bussare alla porta gli ho curato. Sora Cipre, lei m'ha d'aiutare, mata. Tegno pino de surici così, la terra me la darebbe ne di. La dito, lei era pigliata a petto. Rive, io sarà stano e io curato. Con la cotta, la stola e io zicchietto d'acqua santa e io libero stampato. Trince tre cruci, fece tutta sino e boh, scite do botte de latino. Finita la funzione, na credo lesto, a ti mannè se steva tutto a posto. Sor curato rispose, se è per questo, ma manca di. E poi seguite tosto, ma se ci vuoi fa coglia allora ziuni, scapezzaci una parola di attuni.